la versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, lunedì 23 ottobre, sono le 16:08 minuti e 20 secondi in diretta da Milano, assolatissima, mamma mia il caldo che fa, qui tutte le signore che sbuffano perché hanno le pellicce, le sciarpe e invece continua a fare caldo e questo è il punto. Però detto questo, di che cosa parliamo oggi ve lo dico subito così ci chiamate, e il follow up il giorno successivo, sorpresa sorpresa, il referendum, a differenza di quanto pensassero la maggior parte delle forze politiche italiane, moltissimi media, che ne riparleremo, ma insomma secondo me c'era l'impressione generale di poter guardare con sarcasmo questa cosa, ecco invece poi alla fine hanno votato il 57% dei veneti e il 37% dei lombardi, e hanno votato ovviamente a stragrande maggioranza per il sì a una richiesta di avviamento di una trattativa in pieno rispetto della Costituzione, secondo l'articolo 116, sulle 23 materie che la Costituzione vigente, sottolineo tre volte vigente, perché mi pare che più dei media italiani del centro-sud abbiano fatto finta di non sapere che questa volta la secessione non c'è, non esiste. La Corte Costituzionale, tutte le volte in cui ci sono stati referendum secessionisti, ha detto no. E questa volta è la richiesta di più autonomia sulle materie, sono 23 indicate nella competenza concorrente e 3 invece statuali, 20 sono concorrenti e 3 statuali, indicate dalla Costituzione vigente, perché che disciplina come le regioni possano chiedere, anche con il ricorso a referendum consultivi, l'avvio di queste trattative. Ci vuole poi un testo, un'intesa che va approvata al Parlamento, quindi la cosa è lunga e non si farà in questa legislatura, però il problema viene riproposto ufficialmente al centro della politica italiana. Diteci come la pensate, ve lo aspettavate o non ve lo aspettavate, se siete in Veneto e Lombardia siete contenti, scontenti, sorpresa o meno. Io devo dirvi la verità, io sono molto soddisfatto e sono rimasto molto perplesso nel vedere come l'informazione ha seguito questa vicenda. Perché? Perché l'informazione ha tornato a far dominare vecchie parole d'ordine, cioè quelle secessioniste. L'informazione ha accusato di mancanza di solidarietà i temi al centro di questa vicenda. La mia opinione, ve la dico in due parole, è che anche la vicenda ispano-catalana dovrebbe dimostrare che chi chiede la secessione non ha un immediato piano di percorribilità per le conseguenze economiche e finanziarie, monetarie, nel caso di secessione da un paese dell'euroarea, finisce per dover sbattere il muso. Mentre la mia opinione, semplicemente, è che noi abbiamo due grandi fenomeni. Il primo, decenni di prova provata di quali sono gli effetti dell'attuale confusa organizzazione della forma in cui centro e periferia hanno alternato periodi in cui abbiamo i costi e gli svantaggi insieme del centralismo e del decentramento, senza avere i vantaggi invece di autonomie vere e forti, tranne naturalmente quelle disegnate nell'immediato dopoguerra, di cui abbiamo molte volte parlato, Trentino Alto Adige, Friuli, Valle d'Aosta, Sardegna e Sicilia, che hanno diversi esiti, perché come si vede non basta l'autonomia speciale per arrivare al buon governo, ma tranne in quello, per il resto noi abbiamo i costi e gli svantaggi sia del centralismo che del decentramento, ma in realtà non abbiamo fatto una scelta, seconda considerazione, che a me pare ancora più logico immaginare negli ultimi 16 anni, cioè da quando siamo la Cina è entrata nel WTO, c'è la globalizzazione piena. La globalizzazione significa che inevitabilmente per un paese avanzato esportatore come l'Italia ci sono delle competenze che vengono aspirate verso l'alto, verso i grandi fori multilaterali, non solo l'Unione Europea, il WTO, le vigilanze internazionali sui sistemi bancari, per noi che facciamo parte dell'euroarea. Queste competenze che vanno verso l'alto e che hanno a che vedere con poteri tradizionalmente forti del vecchio Stato nazionale, vecchio, quello romantico, quello uno d'arme, di lingua, d'altare, di memoria, di sangue e di corda, E peraltro questa aspirazione verso l'alto, per non fare collassare i sistemi, cioè per non portare dritti dritti alle braccia del ritorno del patriottismo delle patrie con le frontiere chiuse, tutti gli stranieri nemici, non solo gli immigrati ma gli altri europei, perché il rischio mi sembra forte in Europa, ha bisogno di essere accompagnato da una devoluzione verso il basso, cioè bisogna rivederli i poteri degli stati centrali con autonomie, con un'Europa delle regioni, l'Europa degli stati, che è quella attuale, che sono tutti prigionieri oramai di una disillusione reciproca e di un sospetto reciproco, ha bisogno di accompagnarsi e di trasformarsi senza secessioni inutili, senza guerre, senza arresti, polizie come quella che Rajoy ci riserva in Spagna, e speriamo, vediamo nei prossimi giorni cosa succede, speriamo di evitarcela, ma accompagnare una riflessione profonda su: possiamo rivedere meccanismi di attribuzione delle competenze e di spesa e capire se autonomie più forti delle regioni non servono a rendere le imprese, i cittadini di quelle regioni che economicamente sono caratterizzate da mix di specializzazioni economiche più forti nell'offerta di beni e servizi, che esportano di più, hanno una maggiore concentrazione di capitale umano, hanno una maggiore attrattività verso il mondo, cioè di energie dal mondo che si riversano lì per investire o per studiare, e maggior proiettività verso il mondo, cioè verso i mercati mondiali con la propria offerta di beni e servizi. Ecco, mettere in condizioni con il principio del beneficio einaudiano, cioè tenere a livello più basso di sussidiarietà più competenze e più risorse, significa metterle in condizioni, è vero, di farle crescere di più, ma questo significa anche avere più risorse per quelle regioni che dopo decenni di, tra virgolette, solidarietà dichiarata, noi nel nostro paese abbiamo visto invece aggravarsi nei loro A, gap, B, dipendenza da trasferimenti pubblici sul totale del reddito e del PIL pro capite. Questo è il bilancio storico che questo referendum, a differenza di quello di secessione, coerenza alla Costituzione, chiedeva di aprire. E invece, fine delle mie parole iniziali, abbiamo visto il più dei partiti, perché il più significa non solo il PD, dove con l'eccezione di Gori poi Sala non è andato a votare, e di alcuni esponenti del PD Veneto, ma la linea, diciamo, è quella ufficiale nazionale, ha visto un'alternanza tra contrarietà e agnosticismo. Renzi l'agnosticismo, contrarietà come quella del ministro Martina, cioè negare il problema. Negare il problema, ma devo dire che anche gli altri hanno fatto così. Che cosa ha comportato questo? Che di fronte a un risultato superiore a quello dell'attesa e anche delle campagne di sarcasmo di molti media, mi dispiace per la politica che continua a non capire il problema, hanno riregalato per certi versi la questione, che era totalmente sfuggita come monopolio, diciamolo, alle mani della Lega, l'hanno riregalata alla Lega e al centrodestra. Non so quanto al PD convenga a negare la realtà, perché poi arrivano le siciliane, faccio loro i miei auguri, ma il punto è che qui c'è un problema vero, oggettivo, e questo problema non è l'indifferenza verso chi sta peggio. Al contrario, è pensare che esista una modalità riflessiva, senza abolire il Fondo di Solidarietà Nazionale, per ridiscutere chi può esercitare meglio competenze al livello più basso, in cosa debba consistere il Fondo di Solidarietà, come premiare chi è più virtuoso a parità di unità di capitale pubblico utilizzato nel suo utilizzo per qualità e standard dell'offerta dei servizi. Ecco, in altre parole, sono rimasto basito dal fatto che politica e media continuino a negare che un problema di fondo esiste. E questo, secondo me, è un gravissimo difetto, perché le classi dirigenti dovrebbero accettare che il problema esista e mettere mani a alcune riorganizzazioni nel nostro paese. Vi faccio notare che dal prossimo anno, il cui finisce, la BCE ci leva lo scudo un po' per volta, e noi resteremo col nostro grande debito pubblico, il nostro problema bancario dei crediti deteriorati irrisolti. Dovevamo approfittarne dello scudo europeo per fare un'operazione straordinaria sul debito pubblico e per rivedere l'architettura dei poteri e delle competenze tra centro e periferia. Poi mi direte: ma questo Renzi l'ha approvato, ma il referendum del 4 dicembre non è stato approvato. Perfetto. E quel tentativo era un tentativo di riaccentramento e non è passato, perché la questione non è riaccentrare napoleonicamente, la questione è rivedere le competenze. Ci sono alcune materie, le scelte infrastrutturali, strategico-energetiche, di trasporto, va bene, ma quello che le aree diverse del paese con problemi così diversi hanno è la richiesta, cioè delle diversità totali di condizioni di offerta dei servizi, di formazione dei costi locali, chiedono misure diverse. Questo tutto qua. Poi uno può evitarlo, il problema, dire che non esista, deriderli, accusare di indifferenza, di egoismo, e il risultato è riregalare questa battaglia solo a una sola parte politica. Io dico peccato, ma magari mi sbaglio. Allora, abbiamo con noi intanto due ospiti, poi se ne aggiungerà un terzo per il sud nel prosieguo della trasmissione. Ma abbiamo innanzitutto un imprenditore, presidente di un gruppo lattiero caseario che ha molto innovato nella produzione anche come aree geografiche, quindi interpretando in maniera evolutiva appunto proprio quest'idea di Europa delle regioni, perché è con noi Roberto Brazzale, grazie di essersi reso disponibile. Buongiorno a tutti, buongiorno Serena. E un nostro ospite, ogni tanto insegna storia contemporanea all'Università del Molise, storia comparata dei sistemi politici alla LUIS di Roma, è editorialista del Messaggero, lo abbiamo più volte sentito o sulla Francia o sulla destra e così via, Marco Gervasoni, grazie di essere con noi professore. Grazie, buonasera. Allora, è un fatto o è una mia impressione che i giornali di vasta parte d'Italia, naturalmente meno in Lombardia, ma per il resto lancia in resta, abbiano tentato di negare questo problema, secondo lei, professor Gervasoni? Sì, c'è stata sicuramente una sottovalutazione, nel senso sia della copertura della notizia, sia quando venivano fatti i commenti, perché una sottovalutazione, perché effettivamente si pensava che il tema non fosse così sentito. E invece ci si è accorti che non è così, che e quindi questo referendum è riuscito a chiamare una serie di, come sempre quando vanno a votare, ovviamente più in Veneto che in Lombardia, è stato detto così, ci sono sempre una serie di motivazioni, non può essere una motivazione unica e può essere letta come rivolta fiscale. Io quando dico rivolta fiscale non lo dico in termini negativi, la rivolta fiscale ha una legittimità nella misura in cui le tasse sono veramente troppo alte, può essere letto anche come, soprattutto vedendo i dati tra tra centri urbani e provincia, diciamo, sì, come diciamo una specie di rivolta contro le élite, può essere letto come un tentativo di, in realtà, questo abbiamo visto con la Brexit, ma anche con Trump, ed è una cosa diversa, rivolta all'élite, contro l'élite, di riprendere il controllo in qualche modo, no? Quindi un processo di richiesta di democrazia, di richiesta di controllo. Insomma, tutti questi fattori sono stati giocati bene dai governatori, questo è ovvio, anche se poi loro l'hanno presentato come una cosa dei Lombardi, dei Veneti, però l'iniziativa politica è la loro. E quindi va dato atto. Ma non è un po' singolare, secondo lei, che è molto attenta poi nell'analisi anche del centrodestra europeo e italiano, per i libri che ha scritto e così via, ma non è un po' singolare che la sinistra, che ambisce ad avere con Renzi il 40%, che aveva aperto anni fa, prima che di nuovo cambiasse in questi ultimi mesi con le ultime amministrative, il pendolo, però aveva aperto un processo di legittimazione in tutto il nord, diceva la destra è finita, il ciclo è finito, no, della Lega, e invece questa volta hanno ricommesso, io dico l'errore, ma comunque hanno scelto di dire il problema non esiste, spreco di soldi, finzione. No, peggio ancora, nel senso che o hanno detto questo oppure si sono lasciati dettare l'agenda dall'avversario, che è ancora peggio, l'avversario, la Lega, perché appunto o si è contrari, allora si fa una battaglia, oppure questo avrebbe insegnato loro il vecchio Togliatti, oppure ci si aggancia, però non stando a rimorchio dell'avversario, facendo proprio la battaglia. In realtà no, la questione del Nord è stato veramente breve, l'innamoramento del Nord nei confronti di Renzi, non nei confronti del PD, nei confronti di Renzi. Questo innamoramento peraltro è limitato sostanzialmente alla Lombardia, se si ricorda, quando anche alle europee e poi soprattutto alle regionali, in Veneto già erano più guardini. Però il problema è strutturale, perché in realtà il PD come partito, io distingo Renzi dal PD, anche se ovviamente non si possono distinguere, il PD strutturalmente è un partito del centro-sud, la sua ragion d'essere sta nel centro-sud e quindi è difficile che possa entrare in sintonia col Nord. In fondo, se pensa a Sala a Milano, ed era ancora la fase montante in qualche modo, comunque ancora positiva del PD, Sala ha vinto per un'incollatura rispetto a Parisi, in una fase in cui il centrodestra era ancora molto debole, molto ferito, quindi quindi insomma questa cosa è stata e poi sicuramente al Nord Renzi ha deluso, perché Renzi che cosa aveva promesso? Di abbassare le tasse. Queste tasse non si sono abbassate, ogni imprenditore lo può dire chiaramente, si sono addirittura alzate. Quindi insomma è chiaro che inoltre, come ha ricordato lei, c'era la questione del referendum che era centralizzatore, e però la cosa abbastanza paradossale è che se ricorderà sicuramente, il referendum in realtà in Lombardia vero. Era andato meglio che al sud, meglio che al sud, quindi vuol dire che diciamo in pochi mesi in fondo, no, perché sono passati pochi mesi, neanche un anno, tutto quel residuo capitale, c'è un capitale bruciato, è stato completamente bruciato. Poi per di più adesso negli ultimi tempi c'è uno sbandamento, no? Per cui ci sono alcuni esponenti renziani del PD che dicono bisogna aumentare le tasse, Del Rio così, bisogna aumentare le tasse così, quando uno vuol, Dio acceca chi vuol perdere. Ecco, io devo rispondere a molti ascoltatori che dicono sì, ma il 37% in Lombardia non è un granché, ma signori, i numeri sono numeri e quindi è ovvio che avete ragione, ma io faccio notare che la stragrande maggioranza dell'informazione italiana e della politica, al di là di Maroni e di Zaia e i rispettivi partiti, e posso dirvi nemmeno Salvini si è speso troppo, lo sapete perfettamente che è così, perché ha un'altra lettura del ruolo della Lega, pensavano che in Veneto si rimanesse ben lontani dal 51%, al 50,1% del quorum, e che Lombardia andasse a votare il 10-12%, questa era l'aspettativa, che infatti ha modulato gli interventi degli attori, sia politici che dei media. Ecco, allora è inutile non vedere che invece la questione adesso è che milioni di elettori sono andati e li hanno riregalati ai due governatori. Questa è la mia sensazione, e la mia sensazione, lo dico con le stesse parole, diverse parole, ma insomma con lo stesso spirito del professor Gervasio, da analista, è quello che mi colpisce, è che dopo più di 20 anni questo problema esiste nei numeri dell'Italia, esiste nell'architettura impropria delle competenze. Ci sono paesi con modelli federali, la Germania è federale come repubblica perché viene da un impero, cioè dal Reich, che era federale, il Sacro Romano Impero era federale, per secoli hanno sperimentato la forma insieme della centralità sacra del potere e delle autonomie. Noi no, siamo figli di un'esperienza di Italia unitaria a cui siamo arrivati tardi, più per scherzi del destino che per visione organica, poi con la visione ipercentralista napoleonica delle scelte amministrative, poi col fallimento dopo pochi anni di una classe dirigente, la destra storica, che aveva fatto l'unificazione dei codici, purtroppo la sconfitta dei liberali, dico io purtroppo, non erano all'altezza di fronte alla richiesta di diritti delle due grandi fiumane che irrompevano la storia italiana, quella popolare, cioè quella socialista e quella cattolica, il nazionalismo, il fascismo. Quando arriva la Repubblica, questa specie di ircocervo di centralità, ma che rinvierà molto le regioni, che funziona molto tra il 46 e metà degli anni 60. Perché funziona molto? Perché è un paese che se ne metteva in piedi, è un late camera industriale, quindi enorme crescita, enorme aumento del benessere pro capite. Poi quando nel rallentamento con la crisi di metà degli anni 70 intanto ci sono le regioni, da allora iniziano i pasticci, perché la scelta che non è coerente tra volontà di forte decentramento e però competenze non attribuite con risorse proprie di responsabilità di finanza locale, ma coi trasferimenti nazionali, riduce il tutto a enorme conflittualità. Questa è in breve la storia di un modello che non è né centrale né federale. Questo problema esiste. Le classi dirigenti italiane, invece di fare sarcasmo politico l'un verso l'altro, forse dovrebbero affrontarlo. Allora, io ringrazio il professor Gervasoni e intanto Roberto Brazzale. Roberto Brazzale è stato tra gli imprenditori quello che non aveva dubbi, perché ha scritto e detto nelle settimane alle nostre spalle: ci sono sacrosante ragioni per votare sì al referendum in Lombardia e in Veneto, come hanno fatto altri imprenditori come Zoppas, che ha trascinato poi la stessa Confindustria Boccia a dire bisogna votare sì. Confindustria di suo, lo sapete, non dà indicazione di voto, ma un mucchio di imprenditori in Lombardia e in Veneto hanno seguito l'esempio di Roberto Brazzale. Perché, Brazzale, lei non aveva dubbi? Beh, innanzitutto perché conosco bene il mio popolo, noi siamo una nazione e il sentimento è molto coeso, molto comune ed è interclassista. L'elezione di ieri l'ha dimostrato, è stata straordinaria, una mobilitazione di popolo compatto e entusiasta di andare al voto, molti dopo tanti anni di disertazione delle urne. Ma direi la cosa più importante, perché noi qui stiamo soffrendo in modo particolare, essendo l'epicentro del disastro euro, stiamo soffrendo di quello che lei un po' accennato prima, vale a dire del contemporaneamente del fallimento del modello unionista europeo, che sta crollando sotto i colpi delle varie elezioni negli Stati membri per propria incapacità di funzionare, contemporaneamente con il fallimento del vincolo esterno. L'Italia non si è riformata dopo 20 anni, guardate caso strano, sono proprio 20 anni che mancano diciamo dalla prima ondata, le prime istanze federaliste che poi si sono concretizzate nella riforma costituzionale del 2001, mai attuata, ma da allora ad oggi non si è riformata l'Italia. No. Il vincolo esterno non ha funzionato. Neanche il vincolo esterno più forte del fiscal compact, perché il debito pubblico continua a salire. Quando si ritirerà il QI, vedrà che lo spread risale. Beh, io sono del parere che quello non si ritirerà, è impossibile, perché altrimenti crollerebbe anche la Germania, che è un paese che ha 950 miliardi di crediti verso Italia e Spagna, per cui è la Germania incastrata a questo punto. Ma vorrei dire che soprattutto non ha funzionato il vincolo esterno, tantomeno col fiscal compact, che è stato sistematicamente disatteso. Di conseguenza noi abbiamo una valuta straniera che è l'euro, un sistema inefficiente che è quello italiano, che non si è riformato, e contemporaneamente ci troviamo ad avere una perdita di competitività, perché i nostri concorrenti, primi fra tutti ovviamente i paesi del centro Europa, Germania, Olanda, Francia e così via, hanno le merci molto più competitive delle nostre, sia sul nostro mercato interno che sul mercato internazionale. Questa situazione, che poi si aggiunge alla eurodeflazione, che ha distrutto i valori degli attivi e ovviamente nelle regioni più produttive, dove avevano attinto al credito 15-20 anni fa, c'è stato un forte incremento dei non performing loans, ci ha dato il fallimento delle banche. Allora, questo disastro ha due, diciamo, è come una pressa che ha due pesi, uno sotto e uno sopra. Quello sopra è il fallimento del progetto unionista europeo, è uscita perfino la Gran Bretagna. E quello vedremo, perché da fine anno inizia il cantiere dell'Europa nuova, vedremo. Io sono un po' preoccupato, perché ci arriveremo con un governo dopo le prossime elezioni che chissà che tipo di governo è, però, e quella è la parte sopra. E la parte sotto invece, quello su cui questi referendum insistono? È questa non attuazione del disegno federalista, che in Italia era stato abbozzato in termini ovviamente solenni con la modifica costituzionale del 2001, che poi non ha dato esito. Il Veneto lo distinguiamo anche dalla Lombardia, non sono situazioni analoghe, omogenee, per quanto la Lombardia abbia dato un risultato molto importante. La Lombardia non ha l'omogeneità nazionale, in un certo senso, che ha il Veneto, come idem sentire Zelle, anche come omogeneità economico-sociale che abbiamo qui da noi. E perciò direi che sono due regioni che vanno analizzate in modo un po' diverso. Qui da noi questa congiuntura di fallimento del disegno europeo, di fallimento della riformabilità dello Stato italiano, che non si è riformato nemmeno sotto i vincoli europei, potrebbe dar luogo, e questo è il mio auspicio, ad una sorta di vincolo interno che viene dalle istanze fortemente, energicamente di autogoverno, di richiesta di autogoverno delle regioni, che non possono più andare avanti così. Anche perché, allora, diciamolo chiaro, una volta che si estendesse questa applicazione del 116, anche al sud diventa più stringente, invece che chiedere semplicemente trasferimenti. L'idea che la gente diventa più chiaro che il problema non sono i soldi in meno dati da Roma, ma l'incapacità di chi gestisce quelli di propria competenza trattenuti nel dare i servizi. Cioè, il vincolo interno che lei sta spiegando è questo, di questo tipo qua. Ma Giannino, lei sa meglio di me che i denari che si spostano dalle regioni, i contribuenti alle regioni che le ricevono, hanno solo rovinato le regioni che si ricevono, perché ne hanno depresso le capacità autonome di sviluppo e anche la dignità, se vogliamo. Oltretutto hanno alimentato anche purtroppo vaste aree di corruzione e di inefficienza. Di conseguenza, questo sbilancio che dura dall'inizio dell'Unità d'Italia e che oggi diventa insopportabile, uno sbilancio che dovrebbe essere rimosso, rivisto, nell'interesse soprattutto dei paesi, delle regioni che percepiscono questi aiuti. E mi scusi, di conseguenza ciò che si chiede è una ridisegnare l'architettura costituzionale, tenendo conto che dopo il 48 sono intervenuti dei fatti straordinari, prima fra tutti la nascita di un organismo sovrastatuale come la Comunità Europea, che oggi addirittura è Unione, che ha espropriato, ma per volontà ovviamente degli Stati membri, di grosse fette di sovranità e di conseguenza. Noi siamo un paese che ha messo in Costituzione l'articolo 117, il riconoscimento dell'ordinamento sovraordinato. Non abbiamo neanche messo la cosa che io avrei messo in parallelo, però i tedeschi dicono non si dà un euro senza che voti il Parlamento, e questa cosa che a noi sembra una misura di mancanza di cooperatività è un presidio, ecco. Io avrei fatto l'una e l'altra cosa. Comunque, parole chiare da Roberto Brazzale, grazie anche a lui. Noi torniamo dopo la borsa e torniamo con un interlocutore del Sud. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qui tornati, rispondo agli ascoltatori che dicono: ah, ma come? Ah, adesso per dopo il referendum inviti anche noi. Io invito chi si è schierato, perché sono posizioni diverse. Io non sono un euro, però lui si è schierato. Brazzale ha scritto lettere aperte, cosa, cioè. Quindi noi stiamo parlando di un tema su cui c'è chi la pensa diversamente. C'è chi la pensa diversamente. Adesso, per esempio, abbiamo con noi il direttore del Denaro, il quotidiano economico del Sud, Alfonso Ruffo. Grazie di essere con noi, direttore. Grazie a te, buonasera a tutti. Senti, io sono rimasto un po' colpito da come l'informazione del centro-sud, Lancia in Resta, ha trattato questa vicenda del referendum, ma la mia opinione personale l'ho già esposta. Ho parlato anche stamattina con il direttore del Mattino, ieri c'era un titolo: il Nord vuole i soldi del Sud. Ho detto: scusa Barbano, ma questa richiesta che il Nord vuole i soldi del Sud, da dove esce fuori? Però queste sono opinioni mie, ma come è, io ti chiedo, com'è che non si riesce anche al Sud a dire: ma mica solo loro, anche noi dovremmo ragionare così? Cioè, come ha fatto Emiliano, l'unico presidente di grande regione del Sud, che ha detto: io condivido e lo voglio anche per me. Perché non al Sud anche? Beh, è vero, diciamo che il Sud avrebbe un'ambizione più unitaria in questo momento, ha un po' modificato il suo atteggiamento, perché tu sai che il Sud è stato a lungo tempo anche un po' separatista, ha vissuto l'Unione in maniera complicata e critica, però adesso ha un po' cambiato. Diciamo, ma però, che... scusami, io vedo ripetere le cose, come lo dico con rispetto anche il Svimez, sì, il professor Biesti, cioè che ripetono la cosa come il ritorno agli anni 50, cioè ci vogliono più trasferimenti per il Sud. Allora, questa roba qui, come sia possibile immaginare un ritorno al meccanismo di più trasferimenti per il Sud, quando... Più trasferimenti, no, allora c'è questa norma della legge che mi sembra utile, cioè di mandare al Sud le risorse ordinarie che sono in linea con la popolazione e il territorio, che sono circa il 38% delle risorse ordinarie, che sono molto calate invece ultimamente. Però vedi, Alfonso, io lo sapevo che tu dicevi così. Sai perché? Perché mi ha sempre colpito: noi non abbiamo in contabilità pubblica nazionale, e questo la dice lunga sulla manipolazione che la politica fa su queste questioni, malgrado che la questione, ripeto, sia aperta da 30 anni oramai in Italia, noi non abbiamo un documento ufficiale che metta ordine sui diversi criteri per calcolare il cosiddetto residuo fiscale. Tanto è vero che di fronte alle cifre che vengono elaborate, quelle famose dei 54 miliardi di residuo fiscale, di surplus fiscale della Lombardia, dei quasi 20 miliardi del Veneto, contestatissime da tutti i giornali del centro-sud, che hanno detto non è vero, è vero il contrario, perché quello è fatto dall'Osservatorio sul federalismo, Consiglio regionale Veneto insieme a Union Camere. Se uno va a vedere questa informazione che ci ascolta, le fonti ufficiali italiane, cioè va all'Agenzia Nazionale della Coesione Territoriale, portale trovate sia su Palazzo Chigi che sul MEF, il rinvio, e andate al rapporto annuale 2017, troverete quello che adesso ha detto il direttore del denaro, cioè un calcolo per il quale innanzitutto si mette nord insieme al centro, centro-nord, sì. E non lo trovo molto corretto, e però si dice centro-nord nel 2015 aveva il 67% del totale della popolazione nazionale. Se andiamo a mettere l'integrale della spesa, invece di questo 67 è il 72 e rotti, e quindi ci sono 6 punti di PIL che non corrispondono, in più la spesa al centro nord che non corrisponde al totale della popolazione. Peccato che, scusami Alfonso, questo report secondo il quale il sud dovrebbe insorgere, come dice Pino Aprile, perché sarebbe un defraudato di risorse, il PIL non è un caso, che voglio dire scusami, il gettito e la spesa si calcola sul PIL. Allora, il centro-nord, secondo me è sbagliato metterlo insieme, il centro-nord fa PIL per il 77% nel 2015, quindi ha 6 punti meno, eccolo lì, il residuo fiscale. Quindi, posso dire una cosa, perché ci dobbiamo ridurre a manipolare le cifre? No, ma tu hai perfettamente ragione, poiché le cifre vengono manipolate, strappate, cambiate a seconda dal punto di osservazione, a seconda del criterio, a seconda di come si vogliono interpretare i numeri. Guarda, io faccio un discorso diverso. Noi oggi dobbiamo cercare di aggregare, dobbiamo lavorare per una dimensione europea se vogliamo rimanere competitivi a livello internazionale. Non possiamo dividerci su queste vicende di beghe e dovette. Io sono d'accordo con te. Questo è il problema. Allora, senza entrare, ci saranno sicuramente delle ragioni. Gli amici lombardi, gli amici veneti sicuramente hanno le loro ragioni, ma ci sono delle ragioni più forti, ci sono delle ragioni superiori, che sono quelli di tenere unito il paese in un'Europa. Ma il fondo di solidarietà fiscale, che è previsto anch'esso, non è messo in discussione da questi referendum, è quello che mi ha colpito. Cioè, si tratta semplicemente di dire, il giorno che anche le regioni del sud, Emiliano ha promesso che lo farà anche la Puglia, dovesse inoltrarsi nel dire voglio delle 23 materie avere l'autonomia rafforzata, mi siedo con il governo anche su questo, il che significa, cari ascoltatori, che il governo ti deve trasferire le risorse per esercitarle. Quindi tutti i giornali che hanno detto che non c'è trasferimento di risorse hanno mentito sapendo di mentire. Mi dispiace, cari amici direttori, ma su questo veramente avete dato una cattiva prova. Perché, ripeto, l'autonomia significa che lo Stato, se riconosce quell'autonomia, dà automaticamente le risorse per esercitarle. È chiaro questo? Ecco, il giorno che fosse chiaro questo, ripeto, anche per il Sud sarebbe un criterio di controllo rafforzato da parte dei suoi abitanti, delle imprese che operano lì, per dire adesso non hai più scuse perché hai le risorse per esercitare queste competenze. A me questo sembrerebbe un discorso, non toccando il fondo di solidarietà, ridiscutendolo, ma senza farlo venire meno, per cercare di stare nel mercato mondiale, nella globalizzazione, crescere tutti di più e meglio, Alfonso. Io però tracce di un'inflazione così non le ho viste, non solo questa volta per colpa della politica, anche per colpa nostra, secondo me. Ma io devo dire anche lo spirito, no, che cambia le cose, perché se tu lo fai con lo spirito rivendicazionistico è una cosa, se tu lo fai con lo spirito che dicevi tu, e cioè troviamo il modo migliore di organizzarci per eccetera eccetera, un altro. Ma io non vedo che sia questo lo spirito, perché poi al sud dicono ma allora i 17 miliardi dati alle banche venete, che ne facciamo, di che discutiamo, sono nazionali o sono locali? E il MOSE come l'abbiamo pagato? Cioè, se espandiamo a rivendicare chi è più bravo, non la finiamo più, ci spacchiamo e basta. Certo, ci spacchiamo. Allora, sapevo, chiamando Alfonso Ruffo, che avrebbe dato una risposta chiara, e la data, secondo me, è questa la vera ragione per cui ancora una volta si è finiti su un ring, e però adesso i milioni di persone nel nord hanno ribadito alla politica italiana che il problema esiste. Grazie anche a Alfonso Ruffo, torniamo con le vostre telefonate. La La versione di Oscar. Eccoci qui con le vostre, eccoci qui tornati con le vostre telefonate di questo giorno post referendum. È ancora tutto da capire, i tempi, i modi. Vedrete che comunque si va alla prossima legislatura. Ho pochi dubbi su questo, ma comunque il Veneto, sapete, ha già pronto il disegno di legge, l'aveva già preparato, le chiederà l'esercizio dell'autonomia su tutte e 23 le materie. Cominciamo però con le vostre opinioni, sentendo innanzitutto Federica, la provincia di Modena. Federica mi ha scritto stamattina, io ho detto: ma perché non interviene oggi pomeriggio? Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Ciao Oscar, grazie mille. Allora, amministratrice di un comune del modenese, ricordo bene? Esattamente, Castelvetro di Modena. Sì. In provincia di Modena. Sì. E niente, io sono consigliere comunale e volevo dire semplicemente la mia opinione rispetto a questo tema. E, io non capisco come il PD non possa farsi carico di questa decisione importantissima del Veneto, della Lombardia, anche perché dal mio punto di vista questo è un problema molto vecchio, come ti scrivevo nella mail. Effettivamente stiamo parlando da decenni e decenni e decenni di queste differenze nord e sud, e anche come amministratore locale le sento molto forti. Scusa se parlo così, però sento la mia voce. Noi sentiamo bene, male. Noi sentiamo bene. Ah, ok, molto bene. No, stavo dicendo, il PD dovrebbe farsi carico di questo tema in agenda, che ora ovviamente ha posto la Lega Nord, anche perché credo che se vorrà diventare, continuare ad essere partito di maggioranza, non potrà sottrarsi, perché ci sono delle differenze troppo profonde che devono essere sanate, punto e basta. Non si tratta di contrapporre il nord contro il sud, questo è un tema molto vecchio, anzi credo che per il sud sia una grande opportunità, cioè quella di riuscire comunque a capire quali sono i propri limiti e cavarsela anche da soli, perché è chiaro che questo non sta avvenendo. Immagino che se domattina il nord volesse da un certo punto di vista chiudere i nobiletti, che ne sarebbe del sud, con tutte le inefficienze, con lo sperpero, no, ma certo, anche ma della infatti spesa impensabile pubblica. Ne deve avvenire proprio per questo, siccome per evitare di continuare a dire il sarcasmo è stato come un po' quello che ha usato Rajoy per anni, dopo che la Corte Costituzionale spagnola aveva abbattuto e svuotato lo statuto concesso alla Catalogna e approvato sia la Madrid che la Catalogna nel 2006. La Corte Costituzionale spagnola ha fatto nel 2010, da allora Rajoy ha usato lo stesso atteggiamento che io ho visto di nuovo in questi mesi. Che a che cosa ha portato questo? Al radicalismo e all'indipendenza, alla successione che qui in Italia nessuno vuole. Proprio per questo, secondo me, la testimonianza di Federica è un appello. Cari amici del PD, vedete un po' voi, perché secondo me avete preso un po' una cantonata. Ecco, lo dico esplicitamente, capisco, pensate alle elezioni politiche, ma anche da quel punto di vista l'avete presa la cantonata. Però vedete un po' voi, ovviamente, lo dico da osservatore. Sentiamo Gianfranco dalla provincia di Vicenza. Gianfranco. Sì, buonasera. Buonasera. Oscar. Grazie dell'opportunità. Eccoci. No, io volevo... Chi mi ha preceduto ha già spiegato una parte del mio discorso. Io comunque volevo un attimino soffermarmi sulla distanza siderale che c'è tra la sinistra, perlomeno con la Veneta, e la base. Si usava molto, perché anche io votavo sinistra, si usava molto, molto questo termine. No, ma per di più c'è stato nel PD in Veneto, per esempio Simonetta Rubinato, che è un'eletta del PD, esatto, in Parlamento a Treviso, che non ha avuto dubbi, ha scritto un libro e ha continuato a dire: cari amici del partito, non facciamo stupidaggini, è un problema vero. Però è rimasta... Guardi il grande errore è pensare che questa sia stata una lotta della Lega, Lega esatto. Parliamoci chiaro, gli piacerebbe a Zaia, no, che il 60% dei veneti votasse per lui, esatto. Ma non è così, ecco. Ma lei deve sapere che ieri qui c'era un clima di festa, la gente ha sbagliato a capire cosa sta succedendo, loro l'hanno preso come un voto di liberazione questa cosa qua, capito? Sì. Perché se io domando a mio nonno, se domandavo ai miei nonni, se si domandavano ai vecchi se volevano allontanarsi da Roma, loro non dicevano sì o no, dicevano magari. Certo. E quindi tutto questo sentimento alla sinistra è restato incompreso, non hanno capito la vera essenza di questa gente, e ci ritroviamo i post di Alessandra Moretti sabato, che lei fa hashtag astensionismo consapevole. Mi sono cascate le palle, cioè non esiste una cosa del genere. Gianfranco, ti ringrazio per la testimonianza, vedremo il PD cosa dirà, non credo che farà autocritica, però insomma ci devono un po' ragionare, secondo me. Ignazio, che ci chiama dalla provincia di Lecco. Ignazio. Oh, buonasera Giannino, io la seguo sempre perché mi piace il modo con cui lei affronta tutti gli argomenti. Troppo con buono, troppo buono. Verve, diciamo. Troppo buono. Mi piace tantissimo. Troppa verve, probabilmente. Dice sempre la verità. No, magari. Allora. Io telefono da Lecco per dirle innanzitutto che io sono siciliano di origine, per cui posso confermare il mio sì al referendum, nel senso che io mi sono reso conto che non, come Nel dire sì lei non pensa di tradire la Sicilia, no? Ma assolutamente, ma scusi, la Sicilia non è una regione autonoma. Appunto. La Sardegna è autonoma, il Trentino è autonomo, la Val d'Aosta è autonoma, il Friuli e Giulia è autonomo, perché non potrebbe diventarlo anche la Lombardia che paga il 30% delle tasse nazionali? Appunto, lo so, domanda io, che secondo me ha un fondamento, però. Io voglio ribadire questo, io lavoro in Lombardia da una vita, perché sono venuto da ragazzo che avevo 7 anni e sono cresciuto in questa regione che ha dato a tutta la mia famiglia la possibilità di vivere decorosamente e di lavorare, e mi sono reso conto, e lo dico a tutti gli ascoltatori, che se questa regione funzionerà sempre, se le imprese potranno continuare ad investire in questa regione e a creare lavoro, benessere anche per i meridionali, ma visto che nel sud non si riesce, bravo, io penso, Ignazio, che sarà il carro trainante dell'intera ti Italia. Ti abbraccio, l'idea è di crescere tutti di più. Mi dispiace per Marco, la provincia di Foggia, soprattutto mi spiace se adesso, visto che era da Foggia, mi dicono che devo chiudere, però non vorrei che sembra che ho tagliato l'unico che magari non era d'accordo, ma non so come la pensasse. Comunque, appuntamento domani alle 8:15 con me e Luca, come sempre, 24 mattino, poi alle 16 domani pomeriggio la versione di Oscar.